Friuli nel mondo, 258esima trasmissione dedicata agli emigrati. Scrittori della nostra terra, Leonardo Zanier. Negli ultimi giorni di febbraio si è svolta a Roma la Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, avvenimento eccezionale che per la prima volta in 100 anni di vita dello Stato italiano si incentrava nel tragico, tormentoso problema dell'emigrazione. Non spetta a noi dire dell'andamento dei lavori, delle discussioni animatissime verificatesi, delle tante relazioni presentate dense di proposte, del fiume di parole pronunciate, delle promesse fatte, dei piani scaturiti soprattutto dagli interventi dei numerosi nostri fratelli giunti nella capitale da ogni parte del mondo. Azzardiamo soltanto la speranza che il concreto apporto dato dagli emigrati, veri protagonisti di questo straordinario evento, abbia ad avere quanto prima, da parte dei responsabili governativi, il giusto riconoscimento e che i positivi risultati attesi non debbano troppo tardare. Tra i presenti alla grande assise c'era, attivissimo, anche un emigrato della nostra terra, Carnico per la precisione, che ha conosciuto e sofferto fin da piccolo l'emigrazione, allorché vedeva ogni anno la sua casa priva per mesi del genitore. Di tale dolorosa esperienza, Leonardo Zanier, di Povolaro di Comeglians, emigrato egli pure al compimento dei suoi studi presso l'Istituto Industriale Malignani di Udine, si è valso non solo per impegnarsi appassionatamente a cercare e a suggerire rimedi al cosiddetto fenomeno dell'emigrazione e da giovare in ogni modo con umana, fraterna comprensione agli emigrati, ma ha saputo trarre motivi profondi di ispirazione ad una pubblicazione di versi in friulano carnico dal polemico ma significativo titolo Libers di Scugnilà. Ecco, alcuni squarci di questi componimenti poetici così intimamente legati alla vostra sorte, cari emigrati. Una lapide vecchia di secui, di pari in fi si lascin la strada dal mont in eredità. Una femmina, dopo ve imbuinciata tal dì la schena sotto il gei, ju spieta la sera sotto i cops paiazzi in francs o in marx. Agucia una scarpetta, blestemanta somò, a prea. Ed ascoltiamo ora Stagionai. La sala famea, la chiesa, il bearz, l'ostaria, i amis, las pedradas, un cil da sigilas, gli odors di una vita, strenzi tarnavalis, i vestiti plens di bosco, i riquarts e las fotografias, un toc di formadi, il livel, un salam, una chiaccia, dos coculas e una lagrima ingosada. Bussa la femmina, i fruits ridin, plens di porra di metisi avai, e polà un corriera se trenos lontans, du la che laga a un ati savor, e no san fa la polenta, e il vin nol sa da nuia, e la inta appressa. Là, pensanta novembre, avacia caitocia, al pecol rod da olgia, dormint una baraca, cun int carangussa, dopo veneat tabira, il riguardo di noz plenas di foc e i dispiez dal canai tas moschetas. Di un mannello di poesie tolgo questa che mi sembra la più adatta. Champagne, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don La femmina in pisca aiutiala. Veso mai vi tutto il vin tal bosco, un vin da slava pezz, e i pezz colà, con che sradis come braz, come mansca si tegna in tattiera e non vuole immolà. Veso vi tutto che tiera barsca si distacca e che sradis blancia se a gosas che si creve in tattiera. E veso io tutto un om cal partis, cal va, la sua valis partiera e un canai paman e la femmina in pis caluchiala. Veso iuduti siei voi quant cacialin a tor, la sos mans i siei braz quant calasin che femmina, lo veso iudut. La valis di un emigrant no am pecioz denti, ma speranza, e speranza alla sos mans, ma sol las primas voltas, dopo il sonon, emigrant, al deventa il suo mistir, e all'impara, che non va par vivi, ma par no morir. Questa visione delle case deserte ce la presenta Zanier in questi versi du là sono laz. Ogni volta che si torna le simpri qualche balcon di plui che di not non si impia e la chiesa du là che vivevin vos amigas cussi nera e studada a fa spaura du là sono laz. Allora ti contin di paesi lontan studiati a scuola tornaranno ma nessun sa di nuia, e ienti dal balcons e che sbuses plui neras sa men spietà. C'è, non è facile a di, enche se un sgrisul al cressu paschena travananti il spinà. La speranza è sempre l'ultima a morire, si dice, ma qui una speranza amara. La speranza no a voi parvai, ma mans parfa, e tantas mans fuartas come las vuestas che conosin il presi e il sudor da vita. Ma voi, enti las vuestas lagrimas, son sudor, sudor dal cor, sudor di ogni dì, parce che il vuesti cor le un muscul strac, tar un quarp strac, a non possiergi. A chi la speranza l'han ridota a lacrimas da secui. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.